Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Non c'è alcun dubbio che ragioni sia di tipo educativo che di tipo economico suggeriscano che i primi a dotarsi di misure per il risparmio energetico e di fonti rinnovabili debbano essere gli edifici pubblici. Da questo punto di vista la situazione del paese però è un po' a macchia di leopardo, con gli scuri che purtroppo prevalgono sui chiari. Tuttavia ci sono esempi di indubbio interesse e stasera ve ne vogliamo raccontare uno che coinvolge il comune di Milano. Ne parliamo con Giulio Pasquale Campaiola. Buonasera Campaiola. Buonasera a voi. Funzionario dell'area tecnica del comune di Milano che gestisce un parco di quanti edifici, Campaiola? Circa 600. Di dimensioni variabili, immagino. Sì, andiamo da poche migliaia di metri cubi fino a qualche centinaio di migliaia di metri cubi. C'è anche una certa varietà, immagino, di impianti, di periodi. Ecco, certo, quindi è una situazione molto complessa. Ecco, voi siete intervenuti molto in profondità, in particolare proprio sulla vostra sede. Sì. Le chiedo quindi di che tipo di edificio si tratta, intanto, per capirsi. Allora, si tratta di un edificio ad uso terziario, realizzato circa negli anni 30 come costruzione, che negli ultimi 3 anni è stato oggetto appunto di questa riqualificazione impiantistica. Ecco, che tipo di interventi avete fatto? Sostanzialmente si è mantenuta l'attuale centrale termica, in quanto abbastanza nuova, diciamo. Recente, sì. Recente, sì. Poi invece abbiamo praticamente sostituito tutto l'impianto di riscaldamento del tipo vecchio a radiatori normali con un impianto a fan coil che ci permetteva di avere sia la parte... Quindi ad aria. Ad aria, con aria primaria a fan coil, e abbiamo installato quindi una nuova centrale termofrigorifera. E poi pannelli solari di supporto anche per la produzione di acqua calda sanitaria, e in particolare la centrale termofrigorifera a pompa di calore con impianti di pompa di calore da assorbimento alimentati a gas. Ah, d'accordo, d'accordo. Quindi diciamo che le pompe di calore a gas sostituiscono la caldaia, ma l'avete tenuta per backup, diciamo, sì, per intervenire, sì, o per integrare, o nel caso insomma ci siano, esatto, rotture di qualche tipo. Esatto, esatto. Ecco, questo è un caso in cui siamo in presenza di un sistema integrato che fa uso di due rinnovabili. Mi pare che tra l'altro il sistema pannelli solari termici e le pompe di calore siano integrati, nel senso che sono addirittura interscambiabili in qualche modo. Sì, praticamente l'impianto è stato costruito a livello idraulico in maniera tale che ci possa essere appunto questo travaso di energia dalla parte solare al tutto il resto dell'impianto di riscaldamento qualora abbiamo un eccesso, un esubero di produzione, soprattutto nella media stagione. Sostanzialmente abbiamo voluto un po' sperimentare, se possiamo dire, sulla nostra pelle una tipologia di impianto in cui si poteva avere, diciamo, da un'energia completamente gratuita, quella solare, ad una pompa di calore che comunque ci avrebbe permesso di limitare i consumi elettrici, e questo per favorire sia la parte estiva che la parte invernale, e poi diciamo cercare di fare anche una razionalizzazione con quanto esistente, perché il grosso del parco edifici del Comune di Milano è comunque esistente. Certo, questo tra l'altro è un problema molto diffuso, quello di riuscire a intervenire su degli edifici senza doverli ristrutturare completamente. Tra l'altro voi credo abbiate avuto un problema aggiuntivo, cioè quello di non chiudere. Certo, infatti i tempi di intervento si sono, diciamo, un po' dilazionati, perché abbiamo dovuto ristrutturare per ali, e quindi anche, diciamo, il layout impiantistico è stato appunto deciso in funzione di questa, diciamo, sorta di compartimentazione tra le varie parti, in maniera tale che man mano gli impianti potessero ritornare in funzione, poterci rimettere il personale e svuotare così un'altra ala e man mano procedere sui vari piani per tutta la lunghezza dell'edificio. Ecco, tra l'altro interventi di questo genere ne avete fatti diversi. Mi interessava capire per esempio cosa avete fatto al Castello Sforzesco, dove avete messo le mani. Il Castello Sforzesco è stato oggetto di una grossa ristrutturazione negli anni scorsi, adesso praticamente ultimata e pienamente funzionante, nel quale sostanzialmente sono stati installati sistemi a pompa di calore con acqua di falda. Quindi anche qui a pompa di calore, ma non più che estrae energia dall'aria, ma in questo caso avete utilizzato delle pompe di calore che estraggono energia dall'acqua di falda, che è molto abbondante a Milano. Sì, sì, sì, sicuramente, sicuramente. Ecco, credo vada aggiunto che al di là di questi elementi attivi è molto importante curare l'involucro, che forse anzi è la prima cosa. Sicuramente, anzi l'involucro diciamo che è il contenitore dell'energia, quindi La prima cosa da fare è comunque cercare di razionalizzare il più possibile con l'adozione appunto di cappotti termici piuttosto che cambi di serramenti. Noi per esempio nel nostro stabile, a fronte di questo intervento impiantistico, abbiamo anche sostituito tutte le serramenti. D'accordo. Ecco, a proposito del vostro stabile, siete in grado di dire quanto risparmiate rispetto alla gestione precedente? Ma allora, noi diciamo abbiamo sostanzialmente ha avuto un risparmio che è dell'ordine di circa il 30-35% di consumo di gas, a fronte anche diciamo dell'aggiunta di tutto il sistema d'aria primaria che prima non c'era, che comunque in qualche modo implica anche un maggior consumo. E certo, perché fate anche il condizionamento. Sì, il condizionamento estivo. Questo chiaramente ha permesso anche di avere una riduzione sia chiaramente nei costi gestionali, ma anche e soprattutto anche nelle emissioni inquinanti, che come tutti sanno Milano è abbastanza diciamo sensibile, certo, ecco, certo, a questo problema. Va bene, grazie Campaiola. Niente, si figuri. A voi tutti, buonasera. Bene, speriamo che questi esempi servano da stimolo anche ad altri amministratori per proseguire in questa direzione. Mr. Kilowatt si chiude qui, torniamo domani per parlare del progetto Archimede, il primo progetto di solare termodinamico italiano che dovrebbe cominciare a produrre energia a partire da questa estate. Buona serata a tutti.